Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, Bruxellando, Radio Alma, è martedì sera e siamo nuovamente qui. Riconosco che stasera effettivamente fa molto freddo, mi sento veramente scoraggiata, veniamo da un inverno così lungo che veramente ho le mani incrociate, auspicando che possa arrivare ben presto la primavera. Questa sera abbiamo un ospite che probabilmente ci aiuterà forse a ritrovare il profumo dell'estate, un poeta, e di tanto in tanto Bruxellando rende omaggio anche alla poesia, e lui ha scritto tanto del mare, e quindi con questo auspicio un po' più estivo, sperando effettivamente che le temperature risalgano finalmente, siamo veramente felici di avere con noi in studio Alessio Brandolini, che ci racconterà Il fiume nel mare. Ma prima di avere Alessio in studio, voglio salutare il nostro DNM in regia. Buonasera a tutti. Il nostro George. Che distratto. Quando mai, George? Quando mai? Non è una novità, figuriamoci. È la nostra Fiordaliso. Buonanotte. Ah, scusa, buonanotte. Non era buonanotte, buonasera. No, buonanotte, stiamo cominciando, non stiamo finendo. Buongiorno. Ma magari buongiorno, insomma. Quindi benvenuti, bentrovati. E, no, se è buongiorno si vede il mattino qua di quei giorni, siamo pochi. Di questi tempi e di questo, insomma, con questa allure, come si direbbe qui da queste parti. Quindi magari raccontiamo già di qualche evento che allieterà le nostre, le vostre serate o giornate, come quello di Oriente, Arti e Arte di Vivere nell'Impero Ottomano. Questa è una mostra che è già ormai attiva da qualche mese, ma termina il 27 febbraio 2011, e la Fondazione Bogossian presenta nelle sale della Villa Ampa una esposizione che sottolinea la ricchezza e l'eredità culturale trasmessa dall'Impero Ottomano dal XV secolo e fino all'alba del XIX secolo. E vi consigliamo vivamente di andare, perché veramente potrete gustare quelle che sono le diversità delle arti ispirate da molteplici influenze che durante i secoli hanno dato luce a questo impero così affascinante. Il sito internet di riferimento è Villa Ampin, quindi Villa Ampin, fatta la distinzione tra la e la e finale, .com, presso Avenue Franklin Roosevelt 67 1050 XL, quindi anche abbastanza centrale. Il prezzo dell'entrata è di 10 euro, riduzione per i gruppi, più gratuito per i bambini di meno di 8 anni tutti i giorni tranne il lunedì, come ovviamente come al solito, dalle 10 alle 18:30. Quindi Colori d'Oriente, Arti e Arte di Vivere dell'Impero Ottomano. Ecco, quanto fa Ottomano? Ottomano fa 8 per 5 40. Brava. Pensavo avessi detto 80, 8 anni, invece no. Ti ho sorpreso, hai visto? Allora, parliamo di questa cosa che a me, cioè, un po' disturba. Lo sapevo, perciò infatti lo faccio dire a te. Un po' disturba, però, tu forse ci recuperiamo. Allora, si parla di un vernissage che è questa sera, e quindi per voi è troppo tardi, però anche c'è per un'esposizione. sì, c'è un'esposizione, l'esposizione di San Valentino. Ah! Allora, secondo me non piace San Valentino, mi piace la festa, ma non mi piace ciò che è stato fatto di San Valentino, che bisogna regalare i fiori, bisogna regalare i cuori, eccetera, eccetera, eccetera. Questo noi non lo vogliamo sapere. Vabbè, questo... Ognuno è libero, no? Sì, l'ho detto, io ho detto la mia, non mi piace. Però questa esposizione è un po' diversa, perché tra il fotoromanzo che mette in scena Barbie, Ken e gli altri, la sensualità dei corpi di Michel Soucy, poi c'è Untruth, un poison violent, un violon, c'est ça l'amour, un truc un pas de passer la dose, de Gainsbourg. Insomma, c'è un'esposizione sull'amore sotto tutti gli aspetti, ma lontano dai cliché di San Valentino. Ecco, però forse questo è interessante. E dov'è? Al Gallery Garden 206 Rue Steven a Bruxelles. L'entrata è gratuita, l'apertura è da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 15. E il sabato dalle 11 alle 15, che orario strano, è un orario stranissimo, perché qualcuno ci va, visto che a Rue Steven ci va durante la pausa pranzo, probabile. E Sunday Dimanche, cioè sabato e domenica, e serate su rendezvous, cioè su appuntamento, quindi si può anche magari fare su appuntamento. Dunque il vernissage per chi volesse fino alle 21, quindi siete ancora in tempo, adesso sono le 8 e 12, quindi per quanti fossero in macchina indecisi su cosa fare, questo mi sembra essere il vernissage, un ottimo suggerimento. E ovviamente è fino dall'11 qui non trovo, ma sembra che sia dall'11 al 14 febbraio, mi sembra di no. Beh, sicuro, San Valentino poi finisce, non è un evento di quelli che per fortuna dura nel tempo. Eh sì, quindi adesso sarà fino al 14 febbraio, quindi non c'è, non per c'è, fortuna, non c'è limite, quindi sembra che sia proprio fino al 14 febbraio, cioè giorno di San Valentino. Passiamo invece ad un'altra esposizione di cui avevamo già parlato, Bruxelles TXT di Fabrizio Musa, che veramente vi suggeriamo di visitare. E Fabrizio riesce a condurci in un mondo dove il naturale e l'artificiale, il vero e il possibile, il presente e il virtuale sembrano dialogare e comprendersi. Musa è sempre stato appassionato di arte numerica, pensate che è stato lui a coniare il termine scanner art per definire questo suo processo di creazione particolare. Infatti, attraverso l'aiuto di uno scanner, Musa trasforma le sue fotografie in immagini di testo in definizione ridotta. Così facendo riesce effettivamente a dare l'idea di questo passaggio, di questo mutamento che c'è dalla fotografia all'immagine, utilizzando soprattutto il nero e il bianco e anche qualche tocco di colore. Fabrizio Musa ritorna a Bruxelles dopo tanti anni, dopo 9 anni di quella che era stata la sua prima mostra qualche anno fa. È ormai diventato un autore di successo, e non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti. E saluto anche gli amici di Arza che ci hanno ricordato di questo evento, e vi ricordo che sarà possibile visitare la mostra ancora fino al 14 febbraio, quindi insomma questa è una data un po' importante da ricordare, a Rue de l'Ermitage 55, quindi al CIVA, proprio nel cuore di XL, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 18. Abbiamo dei problemi in regia perché ovviamente abbiamo comperato da poco una scheda per telefonare, ma pare che non funzioni. Io direi che possiamo andare quindi magari con un suggerimento musicale con i nostri amici. Abbiamo così ricevuto il classico pacco, quello che si dice pacco. Abbiamo ricevuto un il pacco. I pacchi vanno di moda in Italia, no? E come no? Ce ne sono tanti. Certo. Di diversa natura, diverso colore, diverso contenuto, regalini, eccetera. Diverse quindi, forme. Intanto ci ascoltiamo questa musica. Molto soft. Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, eccoci nuovamente qui dopo questa splendida canzone di Jovanotti, che tra l'altro ha recentemente quindi pubblicato il suo nuovo album. Noi speriamo di potervene dare un assaggio la prossima settimana. Come annunciato in apertura di trasmissione, è il nostro ospite graditissimo questa sera a Brussellando, Alessio Brandolini, autore de Il fiume nel mare, edito da Lieto Colle. Alessio. Eccoci, buonasera a tutti. Ah, buonasera, benvenuto, spero che tu possa... Io parlo da Roma, Sì, sì, sì, sì, sì. Distanti, però vicini con l'affetto e con la poesia soprattutto. Assolutamente, la poesia è poi è uno degli strumenti che ci permette veramente di essere ancora più vicini. Alessio, puoi raccontarci brevemente, insomma, questa tua passione per la scrittura e il tuo percorso di scrittura? Brevemente, allora ho sempre amato la poesia, la lettura, poi per quanto riguarda invece la pubblicazione di testi poetici, ho partecipato con molta diffidenza dei premi letterari a un premio che si faceva qui a Roma importante, che era il premio Montale, con dei testi inediti dedicati alla mia città, il titolo era L'alba a Piazza Navona, che vinse la sezione inediti di questo premio. Complimenti. Poi l'anno dopo uscì un'antologia di 7 poeti vincitori di questo premio, sto parlando del 1992. Poi per 10 anni mi sono astenuto da pubblicare poesia, ho scritto moltissimo, ho letto moltissimo, perché io più che poeta mi ritengo un ricercatore poetico, fino a quando nel 2002 è venuta fuori l'opportunità di pubblicare un libro molto strano che si titola Divisori orientali. Perché strano? Perché avendo accumulato molto materiale sono stato costretto a fare una specie di autoantologia. Questo premio l'anno successivo questo libro ha vinto un premio che era il premio Alfonso Gatto per l'opera prima. Ah, però. da scrivo, penso a pubblicare abbastanza costantemente nel tempo, con Le poesie della terra del 2004, Il male inconsapevole del 2005, fino ad arrivare poi all'anno scorso con il libro che tu citavi all'inizio dell'intervista, Il fiume del mare, che è stato qualche mese fa finalista al premio Camaiore. Mm-hmm. Beh, noi non ti nascondo che il nostro Giorgio leggerà qualche poesia ed è stato estremamente difficile estrapolare, diciamo, le più belle, quindi non me ne vogliono nemmeno i nostri ascoltatori se potranno assaggiare soltanto alcuni, insomma, dei tuoi testi, perché effettivamente parte sempre da Il fiume del mare, dal libro che siamo assolutamente parlando. Sì, sempre da Il fiume del mare. Però prima magari di entrare proprio nella poesia stessa, mi incuriosiva molto il titolo, perché in effetti tu accosti il fiume e il mare, il che effettivamente, insomma, è una dimensione estremamente interessante. Come mai questa idea, insomma, di accostare queste due immagini così forti, da un lato il fiume e dall'altro il mare? È una bella domanda che richiederebbe veramente delle ore per rispondere. Beh. Perché? Perché il libro prima di questo si intitola Tevere in fiamme e è scritto nel 2008 con una casa editrice romana che si chiama Azimut e ha vinto il premio Sandro Penna. Ah. Io ho due voci poetiche, sono venute fuori da sole, una voce che è quella del fiume del mare, molto soave, molto dolce, che tende a ricucire gli strappi. Al contrario c'è una voce più dura nella mia poesia, che passa per divisori orientali, per Tevere in fiamme, per alcune cose che ho inedite, per Il male inconsapevole del 2005, che invece tende a scoprire nuove terre, a scoprire le ferite, a mostrarle. Sono testi più duri, a volte di più difficile lettura. Questo Tevere in fiamme, forse il titolo già suggerisce qualcosa, no? Parlo della nostra città, ma allo stesso tempo dei problemi che affliggono la nostra società contemporanea. Beh, già parlo anche con Il fiume del mare, ma cambia il tono, cambia la voce, una voce, ripeto, più dolce, più vicina a una operazione di capire meglio le cose, comprenderle con più amore. Quindi è questo fiume che si ricongiunge al mare che rappresenta la vita di tutti. Un desiderio di congiungere i pezzi rotti della mia vita, i mali della vita, e cercare di capirli meglio. Per questo la voce è completamente diversa tra quella dal fiume del mare, che è l'ultimo libro, e il penultimo, che è Tevere in fiamme. Però la stessa definizione di Tevere in fiamme è forse ancora più forte, quindi qual è stato il passaggio di scrittura che si è verificato dall'uno all'altro? Immagino che i due siano comunque, diciamo, correlati, è stata un po' un'evoluzione del pensiero. Allora, Il fiume del mare è un libro che in alcuni pezzi è nato addirittura prima del Tevere in fiamme. Per esempio in Epigrafe c'è un brano tratto dalla mitologia Kogi, che è una mitologia che è vissuta in Colombia nell'epoca precolombiana, che dice questo: prima c'era il mare, tutto era buio, non c'era sole, né luna, né uomini, né animali, né piante, c'era soltanto il mare, ovunque. Il mare era la madre, essa era acqua che stava da tutte le parti, ed era fiume, laguna, ruscello e mare, per questo stava ovunque. La madre non era persona né niente, né cosa alcuna, essa era spirito di quello che sarebbe venuto ed era pensiero e memoria. Questa epigrafe io la copiai nel 2005, credo, a Bogotà, al Museo dell'Oro, e è stata un po' la guida di questo libro, questo mare che accoglie, questo mare che è anche una madre. Mm-hmm. Fascinava questa immagine. Da qui è nato questo libro di poesia, non una raccolta quindi, perché mi piace scrivere libri che narrano delle storie, come se fossero dei romanzi poetici, seguendo questo filo conduttore del mare che è anche una madre. E quindi, per ritornare alla domanda di prima, il fiume è il figlio? E quindi è questa la relazione che c'è tra il fiume e il mare? Sono le nostre vite che alla fine si devono ricongiungere al mare, che è la vita degli altri, la vita di tutti quanti, e quindi è la mia vita che si confonde a quella degli altri, che si avvicina a quella degli altri. Guarda, questo è un concetto che noi di Bruxellando abbiamo cercato di sviluppare un po' nel tempo, andiamo in onda già ormai da qualche anno, e l'argomento del mare in effetti ritorna molto spesso, ritorna a volte come madre, ritorna come momento di riflessione, e ritorna anche il fiume. E, probabilmente, sicuramente avrai letto Siddhartha, e c'è quel momento bellissimo col dialogo tra Siddhartha ed il fiume. Quando ho ritrovato alcune delle tue poesie mi è sembrato di risentire quella tensione, no? quel momento di pausa e di distacco, e quel narrare ad un ente astratto, in questo caso il fiume, quindi nella sua metafora più ampia al mare, non solo come madre ma anche come momento, è difficile da spiegare, però probabilmente in questo ci puoi aiutare, come creazione, come fecondità, come momento di stacco dal presente, sì, verso... Sicuramente anche questo quello che tu stai dicendo è vede bene un aspetto, perché poi un libro che si compone di parecchi testi come questo, che non è una plaquette, diciamo, ha diversi aspetti che si mettono insieme. Per esempio, per aprire un altro discorso diverso da quello che tu stai accennando, il mare può diventare anche la tomba, la tomba per esempio di chi cerca di attraversare il mare per raggiungere un'altra sponda in cerca di un benessere, in cerca magari della libertà, e non riesce a raggiungerla e sprofonda nel mare. E, per esempio, c'è una poesia dedicata ad Alfonsina Stormi, che potessa di origine italiana, emigrata poi in Argentina, che sceglie la morte per mare perché è anche un modo per lei per ritornare alla vita. Sembra un assurdo, ma questa ricongiunzione con la morte era anche tornare all'origine della vita, certo, capirne il significato profondo. No, infatti... Poi in quel caso non era proprio un suicidio, perché, come ben saprai, Alfonsina era... stato terminale per un tumore, per cui era condannata a morte, fu un suicidio però diciamo voluto per il fatto di non seguitare a soffrire come stava soffrendo in quel periodo. Certo. Se mi agito sto male, per giorni poi fatico persino a respirare. Con la nascita ho ereditato di certo da mia madre quest'unico umano difetto. Ogni morto sulla spiaggia mi hanno dal polso un filo di rame incandescente, un sottile cerchio di cuoio, un figlio che implora soccorso. Lo fa per non lasciarmi nel fosso con la gola asciutta per via dell'acqua salata, o dal rimorso per aver fatto ben poco per non lasciarlo affogare. Attraversiamo il Mediterraneo con una barca che alleggia stento, tracciando un solco alle nostre speranze. Poi di notte, a nuoto, verso l'Italia, se non cediamo alla stanchezza, se le onde non ci spingono di sotto negli abissi, nella liquida tomba. Salvi, se la costa non è troppo distante. Beh, ci sembrava essere un omaggio necessario. E, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha appena letto il nostro Giorgio. No, questa poesia è abbastanza esplicita. Noi nella marea di notizie spesso dimentichiamo quello che succede in questo mare di mezzo tra due terre che è diventata purtroppo una tomba, e non si parla di questi morti, di questa gente, di questi fratelli, io li definisco, che in cerca di salvezza vengono così lasciati a se stessi e precipitano negli abissi del Mediterraneo, che anziché essere la culla della cultura diventa una tomba. C'era questo desiderio di tenere testa alla memoria di queste persone, di partecipare alla loro morte, tant'è che questo libro è dedicato proprio a loro, sì. È dedicato ai morti nel Mediterraneo in cerca di una casa, in cerca di un lavoro. Il lavoro poi, se correggimi se sbaglio, questo ovviamente è anche un'altra interpretazione, è un tema che ritorna molto spesso nella tua scrittura. Sì, sì. Beh, a partire dalle poesie della terra, che è un libro del 2004, una plaquette, pubblicata sempre con Lieto Colle, che mi chiese questo editore che avevo da poco conosciuto, Michelangelo Camilliti, e io avevo queste queste poesie brevi dedicate a mio padre, sempre sul filone Figlio del Mare, quindi parliamo di poesia dolce che cerca di ricucire gli strappi, dedicate a mio padre che era e tuttora un contadino, ora ha 80 anni, all'epoca ne aveva qualcuno in meno. E poi queste poesie furono tradotte casualmente in spagnolo per accorciare, poi questo mi ha dato modo di conoscere il Sud America, di avvicinarmi alla poesia sudamericana. Probabilmente furono tradotte proprio per una vicinanza con un sentimento della terra e del lavoro che forse è più sentito in questo momento a livello poetico in centro e in Sud America che magari in Europa, dove la poesia assume spesso aspetti più metafisici di riflessione. Non sto parlando di valori, più bello o meno bello, di tendenze diverse. E così mi sono ritrovato un anno dietro l'altro a partecipare a festival importanti in Colombia, in Costa Rica, in Nicaragua, in San Salvador, e per me questa è stata anche l'occasione di approfondire lo spagnolo e di iniziare a tradurre libri di poeti di grande valore che conoscevo e che in Europa, in Italia, erano poco conosciuti. Penso per esempio a Jorge Boccanera, di cui ho tradotto un libro stupendo che si intitola Sordomuta e che poi vinse il premio Camaiore come miglior libro di poesia straniero, con mia sorpresa perché era uno dei primi libri che traducevo dallo spagnolo. Quindi il lavoro è una componente importante, fa parte della mia vita, perché tra l'altro rispecchia un po' la mia biografia. Io ho iniziato a lavorare giovanissimo, 11 anni, facendo lavori umilissimi, poi sono riuscito a entrare con un concorso al Senato, questo per entrare un po' nella biografia, però tutte le esperienze che ho fatto prima di entrare in Senato è chiaro che restano dentro di noi. Certo, assolutamente. Lo sguardo sui lavori umili, sulla fatica del lavoro, sulle difficoltà sono rimaste dentro di me. Tra l'altro ci sono valori che forse, come accennavi prima, andrebbero anche un attimo riscoperti, magari non per definirne un apprezzamento negativo o positivo, ma almeno per renderci conto della ricchezza di cui noi oggi insomma viviamo e che probabilmente è sottovalutata, soprattutto insomma dalle ultimissime generazioni. Probabilmente una riscoperta del lavoro in chiave moderna, confrontandola proprio con le generazioni che ci hanno preceduto e con quelle che sono ancora tuttavia rimaste legate alla terra, questo insomma non bisogna nemmeno dimenticarlo, è bene ricordarla anche con la poesia, perché tutto sommato è anche un modo per restituirle quel valore aulico che probabilmente nella quotidianità si tende a dimenticare. Vedo George già pronto per leggere un'altra poesia. Bene, ascoltiamola. Il fiume e la città tagliano in due, poi per questo si sanguina in silenzio. Tra i rami dei platani svelti ci si trasforma in ferite spalancate al corpo dell'Italia, alle braccia di Roma. Non visti o in croce, evitati, respinti sulle strade d'Europa, clandestini e meticci. Il fiume e la città ricongiungono i pezzi, laggiù, dentro il mare. Scusa, si è rimasti un attimo così senza parole. In questa poesia per te la città diventa nuovamente madre che accoglie e a volte anche respinge. Sì, certo, uno ci si può perdere dentro una città che magari si fa più sconosciuta, che magari non ha più la capacità di accogliere, che magari diventa più confusionaria, più dispersiva, più cinica, perché è chiaro che i problemi in un contesto generale poi influenzano anche i rapporti tra le persone. Questi rapporti si fanno più complicati in un contesto più generale, come una grande metropoli, magari in un paese più piccolo, una città più vivibile, sono visti in modo diverso. In una città come Roma, come Milano, come Napoli, è chiaro che i problemi a livello di convivenza, a livello di relazione che possa andare al di là della superficie, no? Della conoscenza, così si fanno veramente difficili. E qua a Roma le cose sono cambiate tantissimo negli ultimi 10 anni, da questo punto di vista. Però non c'è solo una relazione, ecco, tra, diciamo così, fra gli stranieri e gli immigranti e coloro che vivono a Roma, c'è anche nella tua poesia un rapporto a due. Prova a leggere qualcosa. L'orgoglio prendeva il guinzaglio e ogni volta sfigurava l'amore. Ce lo tiravamo dietro per giorni, quel lupa senza faccia, né sguardo. Adesso, per fortuna, me ne rido della tua bocca a secco, dei segni senza un laccio che alla svelta oltrepasso per recarmi in un altro luogo. Cammino dietro al vento che semina alberi nella sabbia bollente. Nel deserto insegui i riflessi dell'occhio splendente del sole pesce materno che va dritto al mare. Quindi anche in questo c'è un racconto, cioè c'è un rapporto a due e una via di fuga comunque che è sempre il mare. Cioè il mare come speranza, il mare come il mare come rifugio, il mare come, ma anche come tendenza, e qui lo vedo più come il mare, come diceva la Fonte, i romantici, lo Sturm und Drang avevano streben, cioè il tendere verso il mare, quindi anche una meta che non si raggiunge mai, da un lato mare madre, ma dall'altro anche una meta irraggiungibile, quindi sempre come una tendenza, un andare verso, anche se poi questo andare verso è molto il movimento. Sì, un movimento. Questo mi piaceva molto, perché qui si parlava proprio di un rapporto a due. Ecco, quali altri rapporti a due ci sono dentro, o comunque come li vedi tu i rapporti a due in questo libro? Beh, per esempio c'è una poesia dedicata a mia moglie, che questo faccio molte, raramente le dedico alle poesie, perché trovo per esempio imbarazzanti le poesie, i libri carichi di dediche, però ce n'è una dedicata a mia moglie, quindi il rapporto, un rapporto forte che ho con lei, che mi sta vicino da 25 anni. E poi ci sono poesie dedicate per esempio a poeti che ho conosciuto e ho amato. Uno di questi è Jorge Eielson, era un poeta peruviano che viveva a Milano da tanti anni, per me è un grandissimo poeta a livello internazionale. E ci sono molti rapporti di amicizie, anche segreti, in queste poesie, quindi è importante sempre il dialogo a due, come tu dicevi, che a volte la poesia, no? Soltanto ci si avvicina senza essere proprio esplicativo in modo chiaro, ecco, sono delle allusioni. Sì, certo, sono delle allusioni, sono delle, come posso dire, delle, sono degli schizzi su un rapporto, su una storia, che poi qualcuno può leggere in modo diverso e può vivere in modo diverso, perché questo schizzo può rappresentare alla fine delle foto, delle immagini diverse. E ne leggo un'altra. Tepore e tempera. Giusto uno sbuffo evaporato sui corpi caldi per via del sole. Nomadi, per il soffio che solleva le parole. Agita il ritmo musicale, spazza via il fango, il polvisco del tempo, l'odio tamburo che ogni cosa offende e diluisce i ricordi. Per un riguardo antico, qui sotto si fondono il Tevere e il Nilo. Non separarti mai dal suono di chitarra, dall'energia del mare, dal liquido dolce e pulito che ha nutrito i tuoi giorni. Non caricarti di inutile peso. No, un invito, qui leggo proprio un invito a, e questo è bellissimo, non caricarti di inutile peso, è proprio una chiusa bellissima. Sì, a mio figlio che ha 22 anni e gli faccio tuttora questo invito a non caricarsi di inutile peso, come sì, purtroppo facciamo spesso, no? Sì, credo però che sia questa, non lo so, però visto che mi parlavi, appunto, hai fatto un brevissimo escurso della tua storia, beh, credo che questo sia proprio il riassunto della tua storia. Se riesco a capire bene, il concetto è che da un mondo contadino dal quale anch'io provengo, hai poi fatto un percorso completamente diverso. Ora a tuo figlio manca la tua esperienza, però ha la fortuna di avere il padre che questa esperienza ce l'ha, che quindi può dirgli qualcosa, e questo qualcosa che può dirgli è non caricarti di inutile peso. Questo è bellissimo, perché significa avere la coscienza di ogni singola parola di questa frase. Credo che sia importante anche poi dare un esempio in questo senso, no? Quindi cioè, allo stesso tempo il dialogo si fa con l'altro, in questo caso con mio figlio, ma l'altro in generale, i giovani soprattutto, e poi diventa anche un modo per parlare con se stessi, nel senso che io ho cercato in questi anni, per esempio, di sfoltire tante cose che facevo e puntare sulle cose essenziali, le cose che poi pensi che possano restare dentro di te, dare un senso alla tua vita. Per esempio, coordino da parecchi anni una rivista web che credo che voi conoscete, si chiama Fili d'Aquilone, che dovrebbe essere anche casa editrice di poesia. Ecco, questo è un segno proprio per cercare di togliere le cose che possono appesantire le nostre vite e invece al contrario fare le cose che ci fanno volare, che ci possono far volare, magari appese a un aquilone. Beh, questo però è molto bello, perché non solo è un indice però di quello che uno ha in testa, ma anche secondo me proprio la capacità di volare è legata strettamente al senso che si vuole dare alla vita. Com'è che si vuole vivere la propria vita? A che cosa voglio lasciare a qualcun altro? Io credo che in questo momento questa sia veramente potente come messaggio. Proprio in questo momento in cui, da un lato, siamo costretti a muoverci in un mondo che ci chiede sempre di più, e bisogna sempre vedere cosa hai fatto, cosa non hai fatto, che circoli frequenti, qual è il tuo curriculum, voglio sapere. E invece di chiedere le competenze, non chiediamo mai che cosa c'è dietro le competenze, cioè quello che lui ha imparato come uomo o come donna. Chiediamo sempre le capacità, tra virgolette, professionali, ma questo non è tutto, anche se è l'unica cosa che viene richiesta. E quindi mi piace molto questo non caricarsi di inutile peso, che io leggo, anche se non caricarti del peso che gli altri ti vogliono affibbiare chiedendoti sempre di più, ma prova a cercare di capire che cosa per te è importante, qual è il senso della tua vita e come riesci a volare, magari anche legato dietro un aquilone. Certo. Con queste labbra trafitte dalle spine, sbrano la mente e la vita avanzata. Ho la pelle scarlatta, di belva solitaria, affamata, assassina. Più avanti ci sono le barche, con le vele fecondate dal vento. Con una mano sugli occhi, calmo, ad allattare il silenzio. Ma adesso pure questa poesia è straordinaria, penso che le metafore utilizzate siano effettivamente un'ottima sintesi della società nella quale effettivamente siamo oggi, e forse effettivamente questo è anche il ruolo del poeta, che forse riesce a cogliere degli aspetti in maniera... Aspetta, è un po' trascurato ultimamente, perché la poesia poi è così una cenerentola. Esatto. E questo è una cosa, un tasto molto delicato, perché per esempio per 10 anni non ho più pubblicato, proprio perché non mi sentivo dentro il contesto poetico in Italia, di questo modo di fare poesia. Senza voler criticare nessuno, ma così distante da quello che volevo fare io, no? La poesia che si mescola alla vita, che magari prova a cambiarla, a dargli un senso. Ho ripreso coraggio quando, come raccontavo prima a te, agli spettatori, ai radiospettatori, sono stato invitato in Sud America e ho visto una grossa partecipazione alla poesia, che sicuramente lì ha più importanza che in Italia, che in Europa, perché magari il nostro benessere poi su altre cose e ha fatto più danni che bene, per esempio sull'ascolto, la capacità di ascoltare gli altri con la stessa poesia. E lì poi sono ripartito. Quando mi sono poi misurato con un'altra poesia, con altri continenti, ho visto che potevo riprendere il mio discorso, magari controcorrente, con la rivista Fili d'Aquilone, con la casa editrice, e fare poesia a modo mio. E quindi a fatica uno va avanti, deve andare avanti per la propria strada. Beh, effettivamente, sai, c'è anche il coraggio di una scelta anche molto, molto intima, che sa però che può trovare magari un pubblico più ristretto, ma che è sicuramente capace di ascoltare e soprattutto di far propri i messaggi che apparentemente, almeno per noi, sono stati effettivamente chiari, ecco. Quindi insomma, noi veramente siamo stati felicissimi di ricevere insomma le tue poesie. Ce n'è un tempo per leggere una poesia piccola di Lidia, sì, in cui parlo della poesia e del poeta? Assolutamente, guarda, sì, dici pure. Sto parlando, lavorerò ancora per anni perché non ho intenzione di pubblicare, una raccolta che si intitola Lampi negli occhi del lupo. E questa poesia è inedita, è la prima volta che la leggo, ma è finita da un po' di tempo. E riprende il discorso che stavamo avendo noi sulla poesia poco fa. Appartiene a uno stile diverso da Fiume del Mare, fa parte di quella corrente che dicevo prima, un pochino più dura, più tagliente. A mitraglia sparavano sentenze, dicevano che i poeti sono assassini o signori sanguisuga. Però non è giusto, di poeta io non ho un becco né il tatto, ma solo le incrostazioni. Inoltre diffido da tempo del circolo letterario, dei premi e dell'accademia. Però spesso mi capita di rosicchiare con gusto e sofferenza l'osso della poesia. E non mi arrivano telegrammi, setaccio pietre palmo a palmo. Ora il freddo lo sento anch'io, strano, perché in fondo oggi è Ferragosto e poi ho sulle spalle, da quando sono nato, tutti questi strati di pelle appartenuti agli avi contadini e dei morti miei e quelli degli altri, dei senza lavoro né casa, dei martoriati dalla fame e di tutti i morti che ancora non sono morti. Ma il boia inaccessibile al conflitto non molla, abbassa la scure con un sorriso. Finito, vi ringrazio. Alessio, effettivamente, guarda, ci risentiamo, no, perché l'ascolto lì. Riapriamo una parentesi su cui noi effettivamente ci siamo interrogati, no? Che è anche il ruolo del poeta. In generale, ecco, che poi ciascuno lo può vedere come vuole, può vederlo come rivoluzionario, può vederlo come conservatore, c'è chi tende poi a volere i premi, i riconoscimenti, quelli immediati, quelli che poi consacrano alla gloria, sai, all'immortalità, come qualcun altro direbbe, no? La tensione verso le Pleiadi piuttosto che verso la quotidianità. Però se tu sei d'accordo, noi potremmo risentirci e parlare proprio di questo, perché l'argomento secondo me merita, è vivace, e magari può nascerne effettivamente una discussione molto più intensa, perché ora purtroppo siamo agli sgoccioli, perché il tempo è... Sarà anche un piacere, perché io domani mattina mi vedo col mio commercialista e decideremo insieme se fa nascere o no questa casa di poesia, casa editrice di poesia qui a Roma, che si chiamerà Editrice Fili d'Aquilone, e avrò il piacere di annunciarlo in anteprima a voi amici di Radio Alma. E noi ne siamo, sì, guarda, noi innanzitutto due volte grazie, allora, tre volte grazie: uno per averci, per averci inviato le tue poesie, due per averci già letto un inedito, e per noi è un regalo, guarda, sì, non puoi immaginare quanto questo ci abbia reso felice. E ovviamente poi sapere della possibilità di una casa editrice edita le poesie, possibilmente inediti e disconosciuti, non può che renderci felici, e stai pur certo che in Brussellando troverai un valido supporto, quindi noi siamo con te. Grazie, allora spero di risentirti presto, un abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori. A prestissimo Alessio. Salve. Grazie a voi, a presto, ciao. Librangolo. Ecco, questa fine è brusca, non me lo sono aspettata. Lui è un innovatore, sai. Ci provo, sì. Ci deve provare sempre, altrimenti non è felice. Mi sembra che l'avevi preso da tutto il calcio, minuto per minuto. No, è diversa, ragazzi. Daniel, me dai, per piacere. È diversa. Comunque, stasera vi ho portato qualcuno dalla Lirilandia, vi ricordate ancora dov'è? Sì. Aspetta, è un paese del sud Europa. Non era la Grecia? No, l'Irlandia. L'Irlandia stivalista. Ne avete dette troppe l'altra volta. L'Irlandia stivalistica. Mi sono persa. L'Irlandia stivalistica. E che non vi riconoscete in l'Irlandia? No, io capisco che non vi riconoscete in l'Irlandia. Hai sentito la regia? Ecco. Hai sentito? l'Irlanda è stivalistica. Però, però la terra madre, la terra madre resta la Grecia, mi dispiace. Vabbè, vabbè, comunque l'Irlanda. Va bene. Io comunque insisto con questa cosa che sia l'Irlanda, anche perché il libro che ho letto proprio l'ultimo, che è di Tiziano Scarp, con il titolo Stabat Mater, vincitore del premio Strega del 2009, è un esponente dell'Irlanda, non c'è niente da dire. Cioè, sì, è proprio, è un esponente dell'Irlanda. Uno che si chiama Scarpa non può venire anche dallo stivale. Esattamente. Quindi si tratta di un libro scritto in modo davvero spesso poetico, perché la poesia cos'è? La poesia è esprimere le cose in modo concentrato, però che ti fa sentire quello che la persona dentro il libro o lo scrittore di una poesia o il poeta aveva sentito in quel momento. È una trasmissione di sensazioni, non è una trasmissione di azione. E infatti questo libro è un perfetto esponente di quello che voglio io esprimere, che spesso nei libri italiani c'è questa trasmissione della sensazione invece della trasmissione dell'azione. C'è dell'azione, sì, abbiamo capito, però è diverso, è molto più tattile, molto più sentimentale, se lo vogliamo dire così. E quindi emotivo, sì, molto più emotivo, infatti. E in questo libro si tratta di un argomento proprio molto emotivo, perché si tratta dei pensieri più intimi, più sinceri di una ragazza rimasta orfana che cresce in un ospitale, cioè in uno degli orfanotrofi della Venezia dei tempi di Vivaldi, e che vive in questo mondo fra il sentimento molto profondo dell'abbandono, del chi sono, di dove vengo, attraverso queste lettere che lei scrive alla sua madre, non concreta, se possiamo dirlo così, e già siamo inoltrati in una Lirilandia profonda. Cioè io sto scrivendo delle lettere sulle mie angosce ad una madre che io non riesco ad immaginare, ma che sto cercando in qualsiasi pezzo della mia esistenza, nei volti del compagni, negli atteggiamenti delle suore, anche nel mondo invisibile che è fuori e che io non posso raggiungere. Cioè già siamo in un mondo, ups! Sì, madre, perché in realtà essendo orfana e quindi vivendo nell'ospitale delle orfane, ovviamente non conosce sua madre. E non conosce sua madre, ovviamente. E quello che la fa vivere, magari, quello che la salva è comunque la musica, perché nell'ospitale tutte le ragazzine imparano la musica, poi quelli che hanno talento cantano nel coro, suonano il violino, e in questo caso si tratta comunque di una ragazza molto talentuosa e anche intelligente. E diciamo che questo che la salva, perché guardando i suoi pensieri uno può soltanto dire mamma mia, ma come non diventi matta, o lo sei già. Diciamo, cioè comunque c'è una grande angoscia nel sottosfondo, però sopra questo sottosfondo di angoscia cresce e vola la musica. E per esempio vi leggo un passaggio, tanto per farvi capire cosa vuol dire la Lirilandia. Cioè, dalle nostre furiose balaustre musicali è caduta pesantemente la grandine. Sulle loro teste è stata gettata musica secchiate, hanno ascoltato tutto quello che può vivere un essere umano in un anno, le esperienze che si possono provare contemplando il mondo ed essendone sommersi, il caldo e il freddo, la spossatezza, l'ubriacatura. Ma noi che le suonavamo non le abbiamo semplicemente ascoltate, queste cose ci hanno attraversate. È un po' poesia, dai. Sì. Grazie. E quindi lei incontra anche Vivaldi, che diventa insegnante, e non vi voglio dire le altre cose, cioè non voglio dire quello che succede, perché praticamente è di qua che comincia la chiave, e questo è l'elemento chiave della storia. Qualcosa che si muove e che poi alla fine porta la nostra protagonista verso il suo futuro, verso, verso un cambiamento, verso una scelta coraggiosa. Vi raccomando questo libro, anche se lo devo dire questo, che alla fine mi sembrava un po' una fine sbrigativa, poco spiegata rispetto a tutto il resto, però è un bel libro, è molto ben scritto, è un bel esponente di Virilandia, quindi vi ripeto, Tiziano Scarpa, Stabat Mater, Premio Strega 2009. Sì, io condivido quello che hai detto circa la fine, che sembra sbrigativa, rimane però un dubbio che non sia una cosa voluta. Beh, può darsi. Io ho avuto un sentimento di mancanza. Ecco, io vorrei capire se questo sentimento di mancanza è stato voluto dall'autore o se invece è un difetto, e mi spiego meglio. C'è un libro dal titolo Caos Calmo che ormai è straconosciuto da tutti, e ho trovato questo libro molto bello, Caos Calmo, fino ai tre quarti o ai quattro quinti, dopodiché veramente mi pareva di vedere l'autore, lo scrittore, che cercava di chiudere in qualche modo, e non c'era una ragione, si poteva chiudere in un altro modo, ma non c'era una ragione, e non ho trovato un motivo valido per questo tipo di chiusura. In Stabat Mater trovo che la chiusura lasci un sacco di punti interrogativi, e proprio il fatto che lasci dei punti interrogativi mi ha fatto riflettere sulla possibilità, sull'eventualità che sia una scelta precisa, perché anche in questo caso si poteva chiudere in un modo diverso, si poteva con qualche pagina in più, non molte, ma forse poi la storia ne perdeva in suggestione, no? Diciamo che la storia sarebbe finita senza interrogativi, e quindi credo che, insomma, per come è costruita la prima parte del libro, io credo che alla fine ci stia bene anche questa chiusura, questi interrogativi, che alla fine sono tanti, nel senso che questo libro non dà una spiegazione, e quindi si rimane un po' a bocca aperta. Però questo me l'ha fatto apprezzare ancora di più. Rimane un po' di rabbia, questo sì, lo capisco, come, porca miseria, uno viene a dire ma porca miseria, e quindi finisce così. Certo, direi non dilungarci oltre, altrimenti però vi ricordiamo però Tiziano Scarpa, Stabat Mater, vincitore del premio Strega 2009. Ovviamente Imola, grazie, perché sono sempre suggerimenti estremamente stimolanti. C'è un ultimo evento in agenda prima di salutarci, perché siamo in chiusura. C'è una, sì, è importante per noi, insomma, italiani all'estero, poi ne parliamo meglio anche martedì prossimo. Ricordiamo velocemente, ma io vi ricordo velocemente che l'ente bergamasca nel mondo ha aperto il circo di Bruxelles, e in occasione di questa apertura il circo di Bruxelles ha organizzato insieme al Comitato Economico Sociale Europeo il 18 febbraio un convegno sul fenomeno delle migrazioni e integrazione culturale, quindi già fino da oggi segnatevi questa data. Potete iscrivervi online fino all'8 febbraio, quindi fino a martedì prossimo. Sì, quindi entro l'8 febbraio, telefonando allo 02 533 2721, o inviando una mail a bergamaschi.bruxelles@gmail.com. E poi l'evento sarà ovviamente anche sul nostro blog. Daniele, com'è il nostro blog? bruxellando.blogspot.com. E la settimana prossima parleremo un po' più del taglio dell'ultimo rapporto degli italiani nel mondo, ci sono cose estremamente interessanti. Io ringrazio Alessio Brandolini, il Fiume del Mare, salutiamo i nostri amici di Lieto Colle, sia Diana che Michelangelo, ringrazio la nostra Fiordaliso, il nostro George, e insomma ci ritroveremo martedì prossimo. Buona settimana a tutti, saluti da Mary D. E io mi inchino a Mary D. Yeah. Wow. Ciao. Yes. Avete ascoltato